se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. «24 mattino» di Alessandro Milan. Oh, giovani, quando vi dico seguitemi i miei pugnaci, dovete seguire et pugnare. Poche foot. When it's not always raining, there'll be days like this. When there's no one complaining, there'll be days like this. Everything falls into place like the flick of a switch. Well, my mama told me there'll be days like this. Noi lo vogliamo un paese un pochino più semplice o pensiamo che si debba continuare con questa casta politica? Però deve... Tutti a parole no, sono favorevoli a ridurre i costi. When you don't get betrayed by that old Judas kiss. Oh, my mama told me there'll be days like this. Io so di non essere la persona più simpatica del mondo. Cioè non le fanno pagare altro. Ma quando uno vota per antipatia, questo è un elemento che dimostra scarsa visione per il paese. Qui c'è a cuore l'interesse del paese. When all the parts of the puzzle start to look like they fit, then I must remember there'll be days like this. A questa vanno aggiunta le province che vengono definitivamente abolite, a questa va aggiunto l'organizzazione del Senato. L'ha detto due secondi fa. Infatti, le province sono in Costituzione. Per poter abolire le province bisogna votare sì al referendum. Se si vota no al referendum, rimangono le province in Costituzione. Noi le abbiamo molto annacquate. Mi attaccherò a questa frase per chiunque mi romperà ancora i maroni sul fatto che continuo a contare le settimane per la cancellazione delle province. Com'è che ha detto Renzi? Le abbiamo per ora annacquate. Annacquate. Quindi inizia ufficialmente la 180esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. Finora sono annacquate, non abolite, annacquate. Certo, sono scritte in Costituzione, lo so anch'io, maestrini della penna blu che siete lì a twittare subito. Non conosci la Costituzione? Twittano così, non conosci la Costituzione, è scritto in Costituzione, devi studiare, caro Milan, studia di più, applicati, applicati. Com'è che fanno? Twittano, stanno twittando, stanno scrivendo i messaggi. E sono le 6:32 del mattino e tranquillizzatevi. E su, sembrate dei topolini in gabbia. When it's not always raining, there'll be days like this. Sono annacquate, infatti piove. Infatti piove. Ah, peraltro sono talmente annacquate che vi informo, come scrive oggi Libero, che da ieri sono aperte le urne, elezioni di secondo livello. State tranquilli, state a casa tranquilli, non dovete andare a prendere la scheda per il voto, non dovete votare nulla. Aperte le elezioni di secondo livello delle province. Cioè stanno scegliendo, ma stanno scegliendo i sindaci delle vostre province, tranquilli, per le province di Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli. Bisogna, come dire, rinnovare i vertici delle province annacquate, che però ci sono ancora. Siamo qui, sono le 6:33 minuti, sono molto contento di avere all'inizio di settimana il grande Vincino. Come stai, Vincenzo? Eccoci. Dove sei intanto? Mondello. A Mondello, e allora si sente che stai bene. Sì, vabbè, ieri ha piovuto tutto il giorno, guarda, un disastro. Ah, come? A Mondello piove? Ogni tanto piove pure qua. E quando arrivi tu? No. Sì, siamo tutti un po' annacquati, diciamo. Siamo annacquati. Come le province. Siamo annacquati come le province. Esiste la provincia di Palermo ancora? Sì. Ma certo che esiste, ma stai scherzando? Esiste, c'è un sacco di palazzi, di cose, c'è un sacco di incombenze, hanno... A me le lezioni di secondo o terzo grado mi fanno proprio, mettono i brividi. Ti mettono i brividi? Sì, proprio un... insomma, fanno, si spartiscono, fanno come capomafia, tu sì, qua, tu qua, all'altro e via. No, vabbè, sì, più o meno, non è che, perché qual è la differenza sostanziale? Zone di influenza, cioè tre dal P3 al PD, uno a quello, mezzo al 5 Stelle, sette a quella e via. Sì, va bene. No. Allora, intanto dicendo al buon Marione Adinolfi, che saluto, che ci arriva un abbraccione dalla splendida Siberia in questo momento, Jesco. Jesco da Krasnoyarsk, guarda qua il numero 007, ma sempre affascinato sta cosa che la Russia ha 007. Deve averla fatta grossa il nostro Jesco. No, assolutamente. Vai, Marione, oggi l'abbiamo chiamato perché non c'è il campionato, quindi va benissimo così, va benissimo. Abbiamo pure battuto la Macedonia. Che abbiamo vinto tutto contro la Macedonia 3-2 al 90esimo, ragazzi, signori. Che Italia. Dai, apriamo il Parlamento perché stanotte, tra l'altro, c'è stato il dibattito Clinton-Donald Trump. Attenzione. Ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene. Allora, il secondo dibattito. Donald Trump ha fatto questo prima nel dibattito. Si è presentato con tre accusatrici di Bill Clinton, una delle quali dice mi ha stuprato Bill Clinton. Un'altra era una ex ragazzina che a 12 anni è stata violentata e l'avvocato dello stupratore era Hillary Clinton. Questo in Arkansas, Caro Vincino, ce n'è proprio la campagna elettorale è arrivata a livelli alè. Beh, assolutamente. Assolutamente. Questo è il commento. Sei di quelli che giudichi Trump un vecchio porco? Questa è la verità. Quello sicuramente è un vecchio porco, come dire, non è che sono due insopportabili, tutte e due. Io sono felice di non votare in America, proprio non vabbè, poi ci sono altri due candidati, ma non, insomma, ecco, mi sarei ma è uno che è un vecchio disgraziato oppure, come dice lui, siete tutti ipocriti? Lui un po' ha detto questo, ipocriti, moralisti ipocriti, tu il moralismo. C'è una buona dose di ipocrisia, non è che poi lui credo che per un periodo lungo, praticamente 70 anni, si divertiva a giocare la parte del vecchio porco ricco che poteva fare quello che voleva in televisione da tutti i lati, proprio appena c'aveva un microfono, non è che diceva le cose peggiori del mondo e questo era il suo ruolo. Persegue Hillary è terribile pure quella, non ti è simpatica. Marione, non gli è simpatica Hillary Clinton. Però, ma non mi sono simpatici tutte e due, guarda. Però di stare qua, però Marione, un po' di Marione, un po' di ipocrisia, di moralismo lo si vede, no? O no? Ma sì, però è chiaro che quando sei in una campagna elettorale come quella americana, metti nel conto che esca tutto, che escano i video di 10 anni prima, che insomma è tutto molto. A me il sistema americano piace molto, io sono convinto che sia un sistema con cui alla fine vai a votare per persone che hai viscerato, insomma questa è una cosa sempre molto, molto interessante. Ma questa, cosa potrà decidere il... Sì, ma sai, il gioco lì è diventato molto pesante perché è il campo repubblicano che ha agitato le acque, quindi sta consumando una vendetta molto dura nei confronti di Trump da parte dei notabili repubblicani. Ora bisogna vedere quanti notabili repubblicani che non vogliono Trump alla Casa Bianca, è qui il cuore della partita, non lo voteranno, incidono e riescono a portare con sé elettori repubblicani, perché in realtà Trump ha un seguito molto forte, di cintura popolare molto molto significativa. Bisogna vedere quanto quello che sta avvenendo nel partito repubblicano, questa cosa è molto interessante politicamente, riesca a uccidere, e quanti lo abbandoneranno, è chiaro. Comunque vi faccio sentire due stralci del dibattito di questa notte, perché noi siamo qua come la CNN, siamo proprio... tra l'altro la CNN ha detto che il dibattito è stato vinto nettamente da Hillary Clinton in questi sondaggi che si fanno al volo. Trump dice tutte chiacchiere da spogliatoio, io rispetto le donne. This was locker room talk. I'm not proud of it. I apologize to my family. I apologize to the American people. Certainly I'm not proud of it. but this is locker room talk. Kiss women without consent or grope women without consent. I have great respect for women. Nobody has more respect for women than I do. Oh, nessuno rispetta le donne più di me, caro Vincino. Questa la traduco anche per te. Questa, vabbè, ha chiesto ancora scusa. L'avevo capito anche prima, non è che... ha chiesto scusa, però insomma. Vabbè, comunque questa cosa dai, l'archiviamo, non lo so, cioè, non ma lo quando so. Votano là, in che giorno a votano? Novembre, adesso non so il se il 4 novembre, 7, il primo giovedì di novembre, quando è il secondo giovedì, quel terzo martedì, l'8 novembre e noi il referendum quando lo votiamo? Noi il 4 dicembre, si spera, quello lo sa, vabbè, si spera, non sapevo se era il 7, l'8. Come quelli di Twitter che fanno adesso, dai, twittando, uno mi ha detto sembra più Woody Woodpecker che uno che twitta, effettivamente. Effettivamente lì così non sai, telegrafo non, sì, non sai che l'8 novembre sei lì, ragazzi. Però so che oggi c'è una disfida all'interno del Partito Democratico, la 348esima, si intende, per carità, la resa dei conti. Dai, io vi prego, oggi alle 17 la direzione del PD o vedo veramente che compaiono le fionde, o qualcuno ci lascia la pelle, cioè si ammazzano, o se no basta. Ma fanno la pace in un certo modo, dai, non fanno mai niente, tutte le da 2 anni che dice la prossima direzione, la prossima. Non succede niente, niente. Ci sei mai niente. Cooper parla, lo dice, lui 2 ore e mezza, sta cosa, lui già ha già parlato da Gilletti, si è fatto fare barba, capelli e tutto là, come si fa ogni settimana, lui ogni settimana va da Gilletti e Gilletti si siede carino, barba, capelli, sì lo una spuntatina qui, grazie, sì. Esattamente, no, e come dire, lui basta. Può fare tutto, no, può usare attenzione, la RAI come le sue, insomma, perché Cooper lo ha detto, personali. Cooper, no, come mutante, sì, personale, usa la RAI, beh, questa è venuta qua ora sul momento, non usa so la com'è. RAI come le sue mutande personali, no, vabbè, Cooper è una cosa, guarda che fammi dire questa so, cosa di Cooper così, fammi dire questa cosa di Cooper, sì, che è fondamentale per il paese. Cooper lo ha detto, siamo alla quasi scissione. Siamo alla Marione. Ma chi conviene la scissione? Allora ma non lo so, Marione è stato nel PD, quindi sa tutto. Cosa succederà oggi, Marione? Ma si fa quello che c'è sempre stato nel Partito Democratico, il sacro confronto fra le correnti del partito, dove la minoranza oggi dirà che vota no al referendum. Questo è il passaggio interessante di tutta la partita. Ora, l'occasione è estremamente ghiotta per Tani, che già ha annunciato il no, Cooperlo, sì, che dice la partizione, sì, per provare a battere denti per via, diciamo, non ordinaria, diciamo così. Quindi anche qui è come il Partito Repubblicano Americano, hanno popolo? Questo è il punto di domanda, cioè, esatto, riescono a trascinare consensi tali che fa d'ago della bilancia e fa pendere la bilancia da parte del no? Bene. Questo è il punto della, secondo te Cooperlo ha popolo? Secondo me non hanno popolo. Il popolo di Cooperlo. Questa è la verità. La minoranza Dem ha colonnelli, ma non ha popolo. Non ha popolo. Però Bersani, dai, un po' di seguaci li avrà, là, no? Io voglio che mi si presenti uno che dice: io voto no perché me l'ha detto Bersani. Cioè, questo voglio conoscere sociologicamente. Ma forse gli esco dalla Siberia, forse è il nostro. Ma chiedilo a quello. O qualche hater di internet, no, magari. No. Forse gli esco da Krasnoyarsk, facci sapere. No, è un clan mafioso. Ma no, senti, ma no, Jesco è un grandissimo, ci segue da anni, lavora, credo. Ma no, smettila, è una persona onestissima. L'avevamo chiamato una volta, lavora con una grande compagnia aerea in giro per il mondo. Sì, note compagnie aeree siberiane. Ma smettila. Allora, guarda, che dopo ti faccio conoscere un ascoltatore tra poco, dall'estero, che sarà con noi. Dalla Colombia, uno intanto, che si chiama Escobar. Intanto... Ragazzi, questa storia finirà malissimo prima o poi, io lo so, finirà malissimo, ci arriverà un querelone lungo dalla Siberia fino a Milano. Allora, c'è uno che vuole tornare, caro Vincino, c'è uno che è stato riabilitato. Chi? Ma come chi? Non lo so. Ma uno che è stato riabilitato, uno che ha detto, ma Ignazio Marino, ma c'è una tirana. Ah, quella che fa parte per fare il giro dell'Italia. Ma sono cinque, sono sei. C'è una gara di c'è questo giro per l'Italia in gara. Ma è stupenda! C'è cioè, Ignazio tutti Marino. A fare il giro per l'Italia. Sì, io pure girerò con loro l'Italia per vedere come è una cosa stupenda. Ignazio qua. Marino è stato assolto, c'è la vicenda degli scontrini, era tutto falso. Ma condannato che era, cosa cambiava? No, non lo so. Però adesso nulla, è andato cioè, tra l'altro non è che uno scemo di magistrato decide se noi smettila, come no, non può essere così. Non do questo potere al primo grado, peraltro, perché poi c'è il secondo, il terzo, sì, il quarto, sì. Il quinto, no, però senti qua, perché Ignazio Marino di scontrini se un attimo come dire fatto prendere la mano, è andato la luce annunziata, il suo momento, sentilo qua. Io sento il dovere di contribuire con la mia capacità di studio, con la mia capacità di analisi, di coinvolgere le tante persone di parte civile, di Io sto con Marino, i marziani in movimento, ma tutti quelli che in tutto il mondo, oggi mi è arrivato un messaggio che mi ha fatto quasi sorridere, è dal preside di una grande università americana che ha detto adesso dobbiamo lanciare un movimento degli Stati Uniti d'America per Marino. Ecco. Ecco signori, quando ti prendono i due minuti al politico, sì, io sto con Marino, i marziani cioè, del sostituisce mondo. Lui Trump, no, i Marino contro Hillary. Ma Adinolfi, che sono i marziani nel mondo? No, chiedi al siberiano, magari pure lui è un mariniano, capito? Non lo so, ragazzi, io sto con gli Stati Uniti d'America con Marino, ma che è? Ma ragazzi, la verità, questo poverino oggettivamente un po' di dente avvelenato ha ragione la vita. Ma sicuramente, sì. Quindi l'hanno fatto fuori sugli scontri, cioè, i famosi scontri hanno pesato e come se hanno pesato, in maniera determinante per la sua vita, cioè questa è la cosa vera, cioè la questione è stata che prendendo al ballo al balzo Marini è stato abbattuto, ricordiamo, da Matteo Orsini che fece tutta quella manovra, ma quella l'imbecille micidiale Matteo Orsini, proprio una stupidaggine colossale. Ecco. Ti ringrazio. E che deve quererare, dai, ma non capite, ha fatto una stronzata immane, non è che eccola, vabbè, dai, andiamo al traffico, va che è meglio, ma dai, il traffico non parlarci, va bene, il traffico a Milan mi vedo sentire il traffico, dai, sci, dai una botta. Ma la mattina non ti riesce a trovare qualcuno che non sia anti-renziano? Anch'io sto con Kim mi pare. Ma che cazzo ci frega a noi del grande fratello? Alessandro, adesso cosa dici? Ma che dici di Marino? L'hai preso per il giocattolo, tutte le mattine dice parliamo di Marino. Ma come Alessandro, vogliono spostare la data? Io ho comprato il biglietto aereo per tornare in Sicilia e votare. Ora si deve votare, hai capito? Avete capito? Si deve votare, si vota! Io ho visto che l'ultimo assessore che hanno nominato, tale Mazzillo, che dire di questo giovanotto? Ha detto lui stesso, io mi ritrovo qui perché non ci voleva venire nessuno. E diciamo anche fisicamente l'unico elemento davvero rimarcabile, rimarchevole, pregevole di questo soggetto. Scherziamo un po', diciamo, è la sua immagine estetica. L'ho visto, si è presentato, due orecchie tipo pala eolica. Madonna mia. E fate anche scelte esteticamente meno improbabili. Vincino, non è piaciuto a De Luca la scelta estetica, è un po' meno improbabile. No, gli è piaciuta moltissimo, sì, assolutamente. È tutto materiale per te, poi per chi fa satira, no? Uno che ha le orecchie grandi come paleoli, che non lo so, questo Mazzillo. È identificativo, insomma, no? Per disegnarlo dice orecchie via, ma anche la RA apposta, ha ragione lui, no? La raggi tu disegni capelli neri, orecchie grandi, occhi così. Senti quelli già che protestano su Twitter. Vincito è un delinquente contro il 5 Stelle. Abituale, assolutamente. Ci manca il tin della lettera quella di Charlie Chaplin. Vabbè, insomma. Caro Marione, sono molto contento di presentarti un nostro ascoltatore che sta all'estero, lo sai? Eccolo là. Eccolo dai. Là, dai. Good morning, Vietnam. Eccolo qua, oggi non andiamo lontanissimo, non andiamo lontanissimo, andiamo solo a Barcellona, dove c'è il nostro Andrea che ci ascolta dall'estero. Andrea, buongiorno. Buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti. Non fate intimorire da Mariona Dinolfi, Che fai intanto a Barcellona, diccelo. Lavoro per una società di consulenza. Oh, straordinario. E che si dice a Barcellona? Ma è vero che a Barcellona non c'è governo? Qui noi scherziamo, lì invece non hanno il governo. Come stanno senza governo? Come si sta? In realtà è Spagna che manca il governo. Ormai certo, da abbiamo fatto due. Sì, Barcellona in Spagna, la consideravo ancora Spagna. Sai? Sì, no, nel senso il governo qui autonomico c'è, anche qui non è che sia, come dire, un governo diciamo politico, nel senso che c'è una maggioranza molto ampia anche qui in Catalogna, diciamo che sia qui a livello di comunità autonoma, sia a livello spagnolo gli ultimi anni sono stati abbastanza delicati. Vabbè, e di che si parla sui giornali? Qual è il tema principale sui giornali spagnoli in questo momento? Il referendum italiano? No, non credo. Sì, No. No, nell'ultima settimana c'è stata molta discussione, molto dibattito sul fronte interno del Partito Socialista, perché sono alla resa dei conti come il PD. Esatto. Oh, che bello. Direbbe da noi che gli hanno fatto le scarpe, no? A Sanchez. Sono state le sue dimissioni una settimana fa e adesso tutti stanno cercando di capire se con questo cambio cambierà anche la posizione rispetto alla formazione di un governo. Dove vai? Noia mortale ovunque, hai visto Marione? Noia mortale ovunque. Beh, bellissima la politica spagnola, sono tre elezioni che non riescono a fare il governo, il Partito Socialista si abbassano, tutti quanti perché vogliono fare la grande coalizione con il povero Rajoy, che da tre volte vince le elezioni e non fanno fare il Presidente del Consiglio, sai, una vicenda straordinaria. Nel frattempo il PIL spagnolo cresce del 3%. E infatti, questa è una cosa straordinaria. E a Barcellona il governo, diciamo, pensa seriamente alla secessione della Spagna in maniera, insomma, strutturata, quindi insomma è la Catalogna è la regione più ricca del contesto spagnolo. C'è molto da appassionarsi alla Andrea spagnolo. Infatti lì Andrea è appassionato, vuoi tranquillizzare nel salutarci che non sei un latitante come dice Mariona Dinolfi? No, sei... la spaccia direttamente. Soprattutto tranquillizzare Mariona sul fatto che qui si sta benissimo, la famiglia tradizionale sopravvive nonostante ci siano normative avanzatissime. Stiamo tutti bene, non c'è nessun problema. La famiglia. Ho una moglie, un figlio. Conviviamo benissimo anche in una legislazione un filo più moderna. Fantastico. Andrea, ti ringraziamo. Hai introdotto un argomento. Tra l'altro, guardate, bellissimo. Vedete subito il tweet. Mi scrivono. No, ti giuro, Marione, non ti sto prendendo in giuro. Marione, giurami, giuro. Mi scrivono da Jensen Beach, Florida. Guarda qua il numero 001772, che non era Charlie Chaplin ma Jerry Lewis, quello che è vero, io non lo so, era Jerry Lewis quello che faceva la ding, quello che batteva la musica. Ma non lo sappiamo, siamo una massa di ignorantoni. Ringraziamo l'ascoltatore da Jensen Beach, Florida. Ma l'uragano non si è esportato via questo, no. È rimasto solo lui in Florida. No. Esatto, qua Jensen Beach, quella che devi scappare, hanno detto, devi scappare. Ha detto Obama che se no fai tutto. Però attenzione, abbiamo due minuti. Marione, è il tuo momento. Oggi i giornali raccontano che con, secondo alcuni quotidiani, un cattolicesimo à la carte è stato battezzato con tanto di benestare del vescovo il figlio di Nichi Vendola e del suo compagno. E qual è il problema? Ovviamente si battezza il bambino, questo anzi auguri a Tobia, ovvio che non c'è nel diritto canonico alcuna ostacolo al battesimo del bambino, questo è assolutamente noto, insomma. Scusa, però inventate regole che non esiste, è chiaro, il bambino non ha alcuna colpa, quindi è giusto che si battezza. Capito Vincino, tutto a posto. Io pure ho battezzato pure le mie figlie, una era proprio urlava, piangeva appena si avvicinava il prete, no, proprio, mamma mia, ma dove mi hai portato papà? No, diceva, dai, non è vero, tutto questo sangue dappertutto, croci, cose, torture, diceva perché papà, ma era terrorizzata povera figlia. Non è vero, Marione, sicuro che è vero, guarda, ti faccio parlare con mia figlia, guarda, ma due anni. Ma quanto aveva? 2 anni? Ma sì, ti assicuro, era per i nonni l'abbiamo fatto. Non... Vabbè, quindi è tutto a posto, Marione. Potevano battezzare tutto, è una polemica. Senti, il bambino che colpe ha? Cioè, la questione dell'utero in affitto aprirebbe un altro dibattito, ma ovviamente non è sulla pelle del bambino. La Chiesa accoglie chiunque, anche i peccatori come me e Vincino. Quindi figuriamoci un bambino innocente. Se accoglie Vincino e le sue figlie, vuol dire che veramente accoglie tutti, sì, effettivamente. Allora ringrazio Marione Adinolfi, a cui giungono i saluti dalla Siberia, da Jensen Beach in Florida, dal nostro ascoltatore in Spagna. Hai capito, caro Mario? Ci ascoltano in tutto il mondo, anche i marziani nel mondo di Marino. Ci ascoltano i marziani. Un saluto anche a Vincino, alla prossima. Il segnale orario vi è offerto da L'impressionismo di Zan Domenechi, in mostra a Padova, Palazzo Zabarella, fino al 29 gennaio. Milan de verdad, ya no podemos más de la abuelita que dice que lees el periódico mejor que nadie en el mundo. Basta ya, por favor, cambia la sigla. 24 mattino, di Alessandro Milan. Eccoci qui, siamo internazionali, anche perché vi ricordo che se vivete all'estero, ci ascoltate dall'estero, non dovete far altro che scriverci una mail. 24mattino@radio24.it, se siete ascoltatori nostri dall'estero, scriveteci e noi vi chiameremo in onda come facciamo ogni giorno attorno alle 6.50. Allora, cari ascoltatori, eccoci qui, è lunedì. Siamo pronti a leggere i giornali nella rassegna stampa di 24 mattino. Dai, andiamo! Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. Lunedì 10 ottobre, intanto i titoli e le aperture del Sole 24 Ore. Apre con pensioni, ecco le novità del 2017, dalla legge di bilancio, gli anticipi e gli aiuti per riscatti e ricongiunzioni. Le pensioni dunque per il Sole, mentre... quasi tutti gli altri quotidiani aprono sulla frattura all'interno del Partito Democratico. Come ho detto prima, un po' ironicamente, la 300ª frattura si intende. Comunque, Corriere della Sera, Renzi sfida Bersani sulla riforma, l'avete votata. Per Repubblica, riforme, resa dei conti nel PD, Renzi, vogliono farmi cadere. Ecco, questa frase, resa dei conti, la troviamo in titolo di prima pagina della Stampa. Il Messaggero parla di rottura nel PD, eccolo qui il giorno, resa nei conti tra Renzi e PD, Libero invece chiudono le province, restano le poltrone, più sprechi per tutti. Aumenti di stipendio alle toghe in politica è invece il titolo del giornale, Magistratopoli, quando PM e giudici vengono eletti continuano a maturare gli scatti retributivi. Il Fatto Quotidiano invece apre con un uomo solo al telecomando, è la par Renzicio. C'è la par condicio che è entrata in vigore, ma il fatto accusa c'è solo Renzi in TV. Partiamo da queste notizie che mi hanno molto colpito, belle da lunedì, che vi fanno pensare a questo paese come un paese normale. Sentite qui queste storie, a cominciare da quella da Sergio Rizzo. Sergio Rizzo sul Corriere della Sera, un commissario, 4 processi, ma la ASL non lo paga da 27 anni. È la storia di Giovanni Figlio Meni, che ha lavorato per 22 milioni di vecchie lire a Siderno nel 1989 con la ASL locale. È un imprenditore edile che non si è fatto pagare, nel senso che non c'è riuscito in 27 anni a farsi pagare 22 milioni di lire. Nel frattempo ha preso la famiglia da Siderno è andato a Bologna e oggi è un gelataio di successo, ma a Bologna. Eccolo qui, Giovanni Figliomeni aveva 28 anni, non poteva immaginare che un giorno avrebbe fatto il gelataio e nemmeno a casa sua in Calabria, ma al nord, a Bologna. Nel luglio 89, quando non era caduto il muro di Berlino e Andreotti si apprestava a entrare per la sesta volta a Palazzo Chigi scacciando Ciriaco De Mita, a Siderno, città di 18.000 abitanti, la ditta individuale Figliomeni del suddetto Giovanni completava i lavori commissionati dalla USL 24, che aveva una premura tale da fare una procedura d'urgenza per fargli fare i lavori. La stessa fretta però non la ebbero quando si trattò di pagare. Non la ebbero loro, né l'ha avuta chi nei lustri seguenti ha preso di volta in volta il loro posto. Ci ha messo 27 anni appunto per arrivare fino in Cassazione Giovanni Figliomeni. Alla fine la Cassazione ha deciso, e siamo al 2009, 20 anni dopo, che Giovanni ha diritto a essere pagato. Ma ancora non sono arrivati i pagamenti in questa lunga storia di mala burocrazia. Alla fine, ovviamente, Figliomeni ha lasciato tutto, è andato a Bologna, ha creato una gelateria che si chiama il Gelatauro, TripAdvisor gli ha dato il certificato d'eccellenza, un successone per lui, racconta Sergio Rizzo, non certo per chi non l'ha pagato 27 anni fa e ne ha fatto scappare un altro dalla sua terra. Complimenti. Storie di burocrazia, pagina 25 del Corriere della Sera. Saltiamo per raccontare una vicenda non tanto simile, se non per la burocrazia immobile, che non è il giocatore che ci ha fatto vincere la partita con la Macedonia, che riguarda questo caso raccontato dalla Stampa, Giuseppe Salvaggiulo, e riguarda le estetiste, o meglio tutti coloro che lavorano in questo settore e che aspettano una legge fantasma da 27 anni, anche loro, come i soldi di questo di Siderno. 26, sembra che dopo 27 anni forse si sbloccano le cose, insomma, potrebbe essere un numero da giocare all'otto questo qua, Peter Bescapè, tienitelo buono, 27, oggi l'ho già trovato, 27 anni per farsi pagare dalla ASL, 27 anni per sbloccare una legge per gli estetisti. Le estetiste possono aspettare, non bastano 27 anni per una legge. C'è un decreto che risale al 1990 per il quale ci fu scritto in questa legge: entro 120 giorni dalla presente disciplina dell'attività di estetista bisogna emanare un decreto per regolamentare l'uso degli apparecchi elettromeccanici nei centri estetici. Sono passati non 120 giorni ma 27 anni per l'appunto. Di giorni ne sono passati dunque 9.800, racconta Giuseppe Salvaggiulo in prima pagina della Stampa, e tra ritardi dei ministeri, ricorsi, controricorsi, pareri scientifici, direttive europee, colpi di scena, amnesie. La prossima settimana questa telenovela burocratica conoscerà l'ennesima puntata davanti al Consiglio di Stato. E tutto viene ricapitolato per un settore... che vorrebbe un regolamento, appunto, un regolamento che non c'è e per cui ci si arrangia come si può per l'utilizzo, appunto, di alcuni apparecchi elettromeccanici nel mondo delle estetiste e degli estetisti. Va bene, in tutto questo, allora, queste province, ieri Renzi ha detto che per eliminare le province bisogna votare sì al referendum, te pareva. D'altronde, è vero che con il sì al referendum si cancella la parola province dalla Costituzione, ma guardate che sulle province forse un giorno andrà detta proprio la verità in maniera totale, fino in fondo. Renzi ha detto: finora le abbiamo annacquate, testuale, ieri da Giletti, non abolite ma annacquate. Ecco perché io continuo a contare, inizia oggi la 180esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. Ma oggi Libero in prima pagina con Paolo Emilio Russo racconta: chiudono le province, restano le poltrone. Forse voi non lo sapete che state andando nelle vostre automobili al lavoro, a scuola, vi state spostando, eccetera. Non lo sapete, ma si sta votando per le province, per il rinnovo delle cariche provinciali, proprio a partire da ieri. Tranquilli, non dovete votare voi, perché sono elezioni di secondo livello, cioè sono i rappresentanti locali, sindaci, eletti dai sindaci delle province. E racconta Paolo Emilio Russo in prima pagina di Libero: sono ancora lì, vive, vegete, da oggi avranno addirittura nuovi presidenti e consiglieri, protagonisti di questo nuovo horror all'italiana. Le province, enti di secondo livello citati in Costituzione, che dopo anni nel braccio della morte del Parlamento sono riuscite a sopravvivere ricorrendo a un artificio da B-movie, cambiandosi semplicemente il nome. Ieri si sono aperte le urne in 9 importanti città italiane: Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli, Barletta, Andria, Trani, dove i consiglieri di comunali dei comuni della provincia sono stati chiamati a votare i nuovi vertici delle città metropolitane, cioè il sindaco metropolitano, il collegio metropolitano, la conferenza metropolitana. E anche se i nomi sono diversi, i tre ruoli hanno ereditato le competenze che un tempo erano dei presidenti delle province, delle giunte provinciali e del consiglio provinciale. Libero fa i conti, dice: ci costano ancora 2,5 miliardi. Renzi dice di averle eliminate, ma ieri hanno scelto i loro rappresentanti. Ma le poltrone continuano, questo racconta Libero. Ma attenzione, udite e udite. Quando io l'ho letto non ci credevo, sul giornale, sul Corriere della Sera, eccola qua, la leggo dal Corriere della Sera, Fulvio Buffi, ecco l'articolo che mi fa letteralmente inzare della giornata, quello che più mi fa inzare della giornata. Più che da mani sul volante, come mani sul... com'è il controllo del treno? Voi tenete le mani sui poggioli della sedia, non lo so... Treni locali, siamo in campagna oggi c'è uno sciopero proclamato dal sindacato Confail. E vabbè, voi direte, per carità, uno sciopero in più, uno sciopero in meno. Ma perché scioperano? Perché hanno indetto questo sciopero in campagna? Perché la campagna ha deciso di abolire una legge da oggi. Questa legge consentiva fino a ieri di dare ai familiari dei dipendenti i biglietti di viaggio gratis. Ma come? Ma perché i familiari? E buoni trasporto bagaglio gratuito o a prezzo ridotto? Questo nelle ferrovie locali Circumvesuviana e Cumana. E l'EAV, ente autonomo Volturno, ha deciso di abolire e abrogare quell'articolo. Ma tra l'altro quell'articolo, che non è una legge dello Stato italiano, era un regio decreto, il 148 dell'8 gennaio 31, firmato da Vittorio Emanuele III. Insomma, sono passati un po' di tempi, hanno deciso che forse questo regio decreto andava abolito, applicato a queste ferrovie locali, e questo prevedeva appunto corse gratuite per i parenti dei dipendenti. Sciopero, non sia mai che si abolisca un regio decreto, non sia mai che si tolga questa cosa. E quindi eccolo qui, lo sciopero dei treni per il regio decreto sulle corse gratuite. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice: sono cose che capitano. State ascoltando un programma offerto da ADP, leader mondiale nella gestione del personale. Alessandro Milani, il giornalista che fa impazzire mia mamma. Va bene, caro figliuolo, alle 7:35 minuti. Allora, due precisazioni. Giustamente un ascoltatore dice: ma dillo che però i nuovi eletti delle province non prendono lo stipendio. È vero, cioè i sindaci, i consiglieri provinciali nuovi hanno già lo stipendio da sindaci, non è che prendono un ulteriore stipendio, ma l'aggravio delle spese non è tanto per le cariche, ma per i palazzi, le funzioni, le strutture, i dipendenti delle province. Questi sono, secondo anche Libero, quello che fanno lievitare comunque a 2,5 miliardi il costo all'anno. Invece devo dire che, e ringrazio gli ascoltatori che mi scrivono, che la questione dei biglietti gratis è prassi, moltissimi mi dicono a Trenitalia, le mogli o i mariti dipendenti, guardate che non mi risulta che non paghino, qualcuno ce l'ha scritto in audio, qualcuno ci ha detto come un ascoltatore dice: io effettivamente mio padre lavora in ferrovie, fino a 25 anni non ho pagato un biglietto in tutta Italia, non ho mai capito il perché. E caro ascoltatore da Mandello, se ci dai l'autorizzazione ti chiamiamo anche alle 8:15 a raccontare questa vicenda. Qualcuno che non nominerò qui in radio è passato dicendo che anche un cognato che lavora, cioè il cognato di una lavora in Alitalia e quindi non paga l'Italia i biglietti. Ma che paese siamo? Ma che paese siamo dove i parenti dei dipendenti non pagano il biglietto aereo, non pagano il biglietto del treno? Ma va bene così? Vi va bene così? E allora scioperate a Napoli, tutti in massa, forza, bloccate i treni oggi, mi raccomando, perché vi tolgono il biglietto ai parenti. Tanto voi dite: se ce li hanno quello là, devo averli anch'io gratis, no? Questo è il classico in Italia. Va bene, veniamo alla politica, dai. La politica, oggi Renzi è andato da Giletti, ieri, domani andrà a Politics, l'accusa tra l'altro in molti giornali, il Fatto Quotidiano in primo piano, ma anche altri, ormai ha, come dire, monopolizzato tutti i vari programmi in Rai. Comunque è andato da Giletti a difendere la riforma, a dire perché bisogna votare sì secondo il suo punto di vista e soprattutto anche a gestire questa ennesima spaccatura, anche questa del PD. No, stavo dicendo un'altra cosa, mi stava sfuggendo. No, spaccatura del Partito Democratico. Oggi alle 17 ci sarà la direzione del PD e tutti i giornali, ma guardate che se andate indietro sarà già la settima volta che titolano resa dei conti del PD. Settima, se non diciassettesima, che titolano così. Ma oggi forse è quella, non lo dico, decisiva. Chi lo sa? Secondo il Corriere non sarà una direzione come le altre, quella di oggi alle 17, la spaccatura sul PD è totale. Renzi, nel retroscena del Corriere della Sera di Marco Galluzzo, dice: la situazione tra me e Bersani, la frattura tra me e Bersani è irrimediabile. Mentre Cuperlo parla alla stampa, pagina 3, è quasi scissione, quasi scissione. Dal 5 dicembre c'è rischio scissione, chiede Francesca Schianchi a Cuperlo. Potrebbe accadere e sarebbe un trauma. Evitarlo è la responsabilità comune che ci tocca affrontare. Credo non lo si possa fare indossando elmetti e svuotando il dizionario degli insulti. Mentre Martina, che è un bersaniano ma è ministro dell'agricoltura, dice: caro Bersani, hai sbagliato, ripensaci, sono preoccupato e dispiaciuto, penso che dobbiamo tutti mantenere toni utili a fare passi avanti. Questo dalla stampa a pagina 3. Secondo Repubblica, in retroscena, Carmelo Lopapa dice che Renzi pensa solo a questo. Il loro no è un pretesto. Quando hanno capito che aprivo per davvero, hanno voluto rompere prima. La mossa di Bersani non è spiegabile in altro modo. Vogliono far saltare tutto, non solo il referendum, ma noi in direzione apriamo lo stesso. Vabbè, non resta che vedere. Ore 17, sfida l'OK Corral, oppure al solito si ricomporrà e la prossima direzione del PD rischia di essere, ovviamente, da resa dei conti la prossima. In tutto questo, a proposito di TV, a proposito dell'accusa di andare spesso in TV, a proposito di aver renzianizzato la RAI, il Fatto Quotidiano com'è che titola la par renzicio invece che la par condicio, c'è un'intervista a Daria Bignardi, direttore di RAI 3, che parte analizzando il flop di ascolti di Politics. A pagina 9 della Repubblica, Rai 3 non sarà renziana, però il suo pubblico deve essere ringiovanito. Politics va male, ma resta. Cambiare solo le cose facili non sarebbe stato serio, dice Daria Bignardi, intervistata da Annalisa Cuzzocrea, e aggiunge: Politics non chiuderà, sta sperimentando un nuovo formato, un nuovo volto, gli serve tempo. Paolo Ruffini, che lanciò Ballarò e Floris tanti anni fa, mi ha detto di averci messo un sacco a farlo ingranare. E come cambierete? Beh, domani l'ospite sarà Renzi, ecco, appunto. E con lui in premier, con lui in studio ci sarà anche Bianca Berlinguer. Poi dal 18 fino al referendum diventerà Tribuna Politics per parlare di referendum. Ma sicuri di evitare la chiusura? È un tema che non ci poniamo, risponde Daria Bignardi. E poi parla della RAI, del servizio pubblico, dice la RAI non è renziana, negli ultimi 4 anni aveva perso 2 milioni di ascoltatori, se non ci poniamo il problema di come parlare a chi la televisione non la guarda più non andiamo da nessuna parte. Dunque deve mantenere un pubblico di sinistra ma anche allargarlo e ringiovanirlo. E infine l'ultima domanda è sullo stipendio, 300.000 euro sopra il tetto di 240.000, risponde alla domanda quando lo taglierà? Beh, non posso tagliarlo io, non sarebbe serio ne discutessi io, ho accettato per spirito di servizio e curiosità intellettuale, dicono tutti così, spirito di servizio e curiosità intellettuale. Se vuole la mia opinione, questa campagna non è una buona cosa per tutti i profili professionali né per la competitività dell'azienda, quindi neanche per chi paga il canone. E vorrei ricordare che per la prima volta i direttori di rete hanno contratti a termine, ma mi adeguerò alle regole come ho fatto finora e come è giusto. Questo per quel che riguarda lo stipendio, Daria Bignardi. Se pensate a questo stipendio da 300.000 euro, cari ascoltatori, e siete degli statali, sappiate che Gianni Trovate oggi vi racconta esattamente quanti soldi ci sono, si scoprirà in settimana per la verità, quanti soldi ci sono per il rinnovo dei contratti statali. È molto interessante perché un nostro ascoltatore la scorsa settimana, se vi ricordate, ha detto: io deciderò come votare al referendum, visto che sono uno statale, in base a quanti soldi mi darà il governo. Capite? No, ha studiato approfonditamente la questione referendum costituzionale. Temo che molti italiani decideranno poi così, come si sveglieranno il 4 dicembre. Se hanno più soldi in banca, se ne hanno meno, se gli hanno rinnovato il contratto, se si sentono di avere simpatie o antipatie verso il governo, decideranno in base a questo, altro che riforma costituzionale. Comunque Gianni Trovati oggi racconta, pagina 4 sul Sole 24 Ore, rischio stipendi per 800.000 statali. A 15 mesi dalla sentenza della Corte Costituzionale che ha imposto di riavviare la macchina dei contratti pubblici, questa è la settimana buona per conoscere la cifra che il governo ha intenzione di mettere sul tavolo. Visto il sentiero stretto su cui si sta inerpicando la manovra, come ha detto il ministro Padoan, non sarà una cifra da sogno, cari statali, tranquillizzatevi. I calcoli della vigilia parlano di 500 milioni che si aggiungono ai 300 accantonati dallo scorso anno, sicuramente riaccenderanno la polemica tra governo e sindacati. Quindi si parla di possibili 800 milioni per il rinnovo dei contratti. Poi c'è il problema però della meritocrazia, il problema di chi andranno, c'è tutta una tabella, il quadro anche delle buste paga degli statali. È la settimana in cui capirete qualcosa di più. Tenete duro, teniamo tutti duro, anche perché è arrivato il buon Mauro Meazza. Buongiorno caro Mauro. Buongiorno, sono qui per spirito di servizio, volevo precisare. 200.000 euro anche a lui per questa uscita il lunedì. Sapete che prende 10.000 euro a ogni uscita del lunedì, caro Mauro Meazza? A ogni endecasillabo, 10.000 euro. Sei male informato, molti di più in realtà. Hai rinnovato il contratto. Molti di più, sì, ho rinnovato il contratto, ma sempre per spirito di servizio. 10.000 euro per ogni volta che ci fa gli endecasillabi, ma sono tutti meritati. Senti, precisiamo a beneficio anche degli accertatori del fisco che non è vero. Perché io volevo mantenere, volevo vedere quanti ci scrivevano e poi te li giravo, porca miseria. Poi forniremo il codice fiscale. Ha subito temuto. Non disturbino altri contribuenti. Va bene. Vado con l'endecasillabo. Ok. Che prende le mosse dalla nostra apertura, così come hai tu brillantemente prima enunciato. Pensione vo cercando che si cara, lo dicono quei di noi che l'han già presa. Se vuoi sapere che cosa si prepara in pagina 2 e 3, l'ampia distesa vedrai, tra cose certe ed altre invece tutte da confermare nel bilancio, per quelli appena anziani d'ogni specie che attendono per l'INPS qualunque gancio. Ma voi, giovani amici tutti e tre, non ci pensate, è pura fantascienza, al Nespoli, all'Alino, al Bescapè, che giova vagheggiar di previdenza. Leggetevi piuttosto dell'ISEE, oppur degli stipendi agli statali, o le vicende degli stati UE, ove la troica die cure brutali. Sono tanti gli argomenti oggi sul Sole e i versi miei ne son pallida eco. Tu leggi con passion come si vuole e quotidianamente vieni meco. Del resto, Era ben fermo il campionato e anche l'Italia stava andando in bassico. Poi Immobile si mosse e il fortunato ossimoro mi porta fino al traffico. Milan, la radio costa! Ebbene sì, alle 7:48 minuti, Meazza che grava sul bilancio del Sole 24 Ore con i suoi endecasillabi 10.000 euro ogni lunedì, vi rendete conto? Intanto Repubblica racconta, pagina 2-3, l'ingorgo delle grandi opere. Marco Ruffolo racconta questa torta da oltre 90 miliardi. Anche se si sceglie senza serie valutazioni, ci sono conflitti di competenza. Per esempio, per la difesa del suolo, solamente 800 milioni stanziati, 25 volte meno del necessario. Progetti al buio, ministeri incapaci, l'alta velocità batte la prevenzione. È un modo per parlare delle grandi opere, soprattutto adesso che è stato rilanciato il tema del ponte sullo stretto. C'è anche un'intervista al ministro Del Rio, ministro dei trasporti e infrastrutture, che in qualche modo, non dico che faccia una capriola sulla questione del ponte sullo stretto, ma frena un pochino. Del Rio, ecco il mio piano per collegare l'Italia, non finisce tutto a Napoli. Sì, l'ho detto, lo confermo, il ponte sullo stretto di per sé non lo considero una priorità. La domanda che mi faccio è un'altra: vogliamo che il mezzogiorno sia connesso al resto d'Italia o no? Possiamo tollerare che tra Roma e Palermo in treno ci si mettano 10 ore e mezzo e tra Roma e Milano 3? Noi stiamo lavorando per connettere l'Italia, i corridoi europei sono una risorsa economica e sociale. E qui arriva la domanda: ma allora significa che il ponte finiremo per farlo? Non per forza, risponde Del Rio. Io sto facendo fare uno studio di fattibilità sul corridoio Napoli-Palermo, dopodiché vedremo. Risulta però complicato pensare che un'opera di alta velocità si interrompa. L'importante è che passi il treno, sopra o sotto vedremo. Ora non voglio entrare nel merito. E poi racconta appunto di come potenziare il corridoio, però il ponte sullo stretto è davvero un qualcosa che va e viene, si costruisce e si abbatte nel giro di 48 ore. In tutto questo, cari ascoltatori, non troverete ovviamente sui giornali oggi nulla di quello che è successo nel dibattito presidenziale tra Clinton e Trump, il secondo confronto tra candidati alla presidenza, perché è avvenuto nella notte, i giornali erano già stati stampati, ma certo su tutti c'è il dibattito su Donald Trump e questi audio recuperati dal passato, per la verità da una decina di anni fa, e proposti in cui Trump parla delle donne in maniera così un po' scurrile, ecco, quando sei potente le donne ti fanno fare tutto, prendile per la puntini puntini e potete aggiungere voi quello che pensate. Non possiamo più votarlo, ora anche 200 big repubblicani voltano le spalle al tycoon e a Donald Trump. Questo è il tema di Repubblica, da Condoleezza Rice a John McCain, l'establishment del partito ormai nel panico per il video con le frasi volgari del candidato. Tra l'altro si ritrova anche una vecchia intervista radiofonica di Donald Trump che disse anche della propria figlia Ivanka: ha un seno più voluttuoso che mai, naturale, un corpo pazzesco. Se non fosse mia figlia le chiederei di uscire. Ma Donald Trump era questo, si sapeva già anche prima. Un po' uno sporcaccione, un po' un maialone, ma va bene. Ma lui infatti dice: siete dei moralisti ipocriti, soprattutto a quelli del suo stesso partito. E ieri si è presentato a una conferenza stampa poco prima del dibattito con Clinton con tre donne che accusano Bill Clinton, quindi il marito di Hillary, una addirittura accusato di averla stuprata. Un'altra è una ex ragazzina di 12 anni che purtroppo fu violentata a 12 anni e l'avvocato dello stupratore era Hillary Clinton, dice Donald Trump. Insomma, la campagna elettorale è scesa a questi livelli, come potete immaginare. Va bene, vi segnalo alcuni articoli di cronaca. Intanto la polemica secondo alcuni giornali perché è stato battezzato il figlio di Niki Vendola, e del suo compagno Ed Testa. Tobia è stato battezzato, Vendola e il compagno fanno battezzare Tobia, il vescovo dice ho dato l'ok seguendo le parole del Papa, sapevo tutto in anticipo, mi è stato chiesto il permesso, non ho nulla da ridire perché è in linea con ciò che dice il Papa, e cioè accogliere le persone. E, però alcuni giornali, Libero il giornale, fanno una polemica dicendo è una religione fai da te, è un cattolicesimo à la carte per Niki Vendola. Altre notizie di cronaca invece vi segnalo che c'è questo articolo di Luigi Ferrarella che racconta come sia caduto l'organo d'appello dei medici grazie a una microstoria di un dentista libanese che a Milano voleva praticare la professione, l'ordine provinciale dei medici di Milano gli aveva rifiutato l'iscrizione all'albo, ha fatto ricorso questo dentista libanese e ha fatto di fatto cadere l'organo d'appello dei medici, la consulta, perché due membri dipendono dal Ministero della Salute che li nomina. E quindi, che era parte in causa in questo appello, e dunque Luigi Ferrarella racconta sul Corriere della Sera che per il ricorso di un dentista libanese cambia un pezzo di vita lavorativa di 350.000 tra medici e odontoiatri, 400.000 infermieri, 80.000 farmacisti, 35.000 tecnici di radiologia, 30.000 veterinari, 18.000 ostetrici italiani, perché la sentenza della Corte Costituzionale ha rivoluzionato la giustizia disciplinare amministrativa dei camici bianchi, sancendo appunto che il loro giudice speciale non è indipendente e imparziale e quindi decade. È una sentenza piccola ma che riguarda tutte queste categorie che ho citato, lo faccio vedere in diretta anche sulla mia pagina Facebook. Ma siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Eccolo qui, una pagina di Elisabetta Ambrosi sul Fatto Quotidiano per raccontare che non si deve continuare a infilare le mutande ai nostri bambini che a 8 anni in piscina sono in grado di vestirsi da soli. Carmelo Lauricella fa sì, sì, con la testa invece tu lì col phon, cambiati, mettiti le calze, ti pieghi giù, ti inchini, infila le calze. No, no, i bambini sono capaci da soli di vestirsi! Ma chi se ne frega!